la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, questo venerdì 30 di maggio, sono le 16.36, primi 31 secondi, vi dico subito qual è il tema se volete telefonare, perché siccome siamo l'inizio di un nuovo fine settimana dove poi c'è il 2 giugno che arriva, magari alcuni di voi girano per l'Italia oppure nella propria città, vanno per museo o non vanno per museo, la domanda che vi faccio, poi arrivo a presentare l'ospite, ma intanto se volete telefonare, e sia nel caso in cui frequentiate i musei nel nostro paese e all'estero, vi chiedo che cosa vi delude di quelli italiani, cosa si potrebbe fare meglio, cosa vi aspettereste di meglio, poi capirete perché ve lo chiedo, e soprattutto se non ci andate invece, o se non ci portate i vostri figli, o se avete iniziato ad andarci quando eravate giovani e avete smesso e così via, perché non lo fate? Cioè, che cos'è che vi delude? Se vi è capitato magari di andarci quando stavate fuori Italia, perché lo avete fatto lì e non qui? Ma anche in quel caso, che cosa secondo voi bisognerebbe fare perché la vostra curiosità, il vostro interesse potesse salire? Capirete tra poco perché parliamo di questo tema, perché abbiamo un ospite importante che è un privato, non c'entra con l'amministrazione dello Stato, con il BIBAC, cioè con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, però è un privato, è un grande nome della moda italiana, della qualità del Made in Italy nel mondo da decenni. Ed è un gruppo che è all'avanguardia da moltissimi anni, proprio per le risorse, per i soldi, per i denari che mette a disposizione di mostre, di musei, di restauri, e lo ha fatto in anni in cui, non come forse avverrà con il nuovo decreto appena presentato dal ministro Franceschini, iniziamo un pochino a seguire la lezione dei paesi avanzati, e cioè di sgravi fiscali molto più importanti perché i privati vengano indotti a donare, a sponsorizzare e così via. Speriamo che il decreto venga approvato. Vi ricordo che alcuni grandi paesi come la Gran Bretagna, per esempio, danno la deduzione piena e integrale delle risorse che i privati, sia persone fisiche, sia società, sia persone giuridiche e società, spendono per partecipare alle spese di una lista, che è una lista definita nazionale, di offerta culturale fatta da teatri, musei, restauri, eccetera, eccetera. Da noi la piena deduzione, figuriamoci, neanche per idea. Però questo gruppo lo ha fatto ben prima, e quindi prescindendo dagli interessi fiscali, che pure secondo me sono una leva importante. Ecco, ve lo presento tra un minuto, fatemi dire solo che oggi, io sono rimasto un po' deluso, oggi era la giornata delle considerazioni del governatore della Banca d'Italia, l'assemblea annuale, come era quella dell'assemblea di Confindustria, io sono rimasto un po' colpito, mi sembra che l'atmosfera generale nel nostro paese, dopo il voto di domenica, sia un'atmosfera interessante, cioè tanto è l'entusiasmo, per carità, mi associo, verso il 40% preso da Renzi, che improvvisamente sembra che tutti i problemi, i numeri vadano a posti da soli. A me ha colpito molto oggi la relazione del governatore, in cui pare che il problema del debito pubblico e della spesa pubblica non ci sia più. Vi assicuro, non è citato come un'emergenza nel nostro paese. Mi sono sorpreso a considerare, ascoltando il governatore, che in realtà la spesa corrente italiana continua a salire. E a un certo punto, quando il governatore ha parlato dei sacrifici fatti dalla finanza pubblica da non disperdere, io mi sono detto: sacrifici fatti dalla finanza pubblica, ma se la spesa corrente continua a salire, il vero sacrificio è solo per le tasche del contribuente, che in questi anni ha visto molto aumentare le tasse per andare dietro e dover pareggiare i conti di una spesa che continua a crescere. Vi dico solo questo: stamattina, tra gli emendamenti approvati al testo del provvedimento cosiddetto IRPEF, che sta in Senato e che dovrebbe arrivare all'Aula la settimana prossima, martedì, tanto per dimostrare che qui l'emergenza non è finita, anzi è finita, e quindi possiamo solo pensare con ottimismo alla ripresa, pensate che hanno approvato l'emendamento per il quale la tassa annuale sugli passaporti passa da 42,50 euro a 73,50 euro, da 42,50 a 73,50, è necessaria sia per andare in paesi in Europa che fuori, 73,50 rispetto a 42,50. Lo stesso testo del provvedimento prevedeva dei limiti anche per il pubblico, per esempio prevedeva l'obbligo di una riduzione del 5% delle spese per contratti di acquisizione di beni e servizi della pubblica amministrazione. Naturalmente questa norma è stata cassata, non è più un obbligo ma è una facoltà. Prevedeva l'obbligo, il provvedimento, di ricontrattare i contratti in consulenze, obbligo prevedeva, è stato cassato, e resta invece facoltà. Quindi capite bene che io continuo a vedere che qui i sacrifici li facciamo solo noi, mentre invece le norme che dovrebbero servire a rendere più snello, più trasparente la pubblica amministrazione, quelle vanno in Parlamento e naturalmente spariscono, diventano facoltà, non obblighi. Però perdonate, io vi presento l'ospite che è meglio e ci consente di arrivare invece all'inizio di questo fine settimana con la felicità di avere con noi il presidente di una casa che ha portato sulle ali del successo nel mondo il Made in Italy, ben prima di tantissime altre, che per fortuna nel settore della moda, della qualità, della pelletteria, del design, poi sono diventate tantissime, sono uno dei settori di punta del nostro export. Ma qui stiamo parlando della Maison Salvatore Ferragamo, quindi di una casa che ha iniziato il suo successo negli anni 20 e 30 addirittura, ed è una storia italiana, perché il fondatore era un emigrante negli Stati Uniti, poi tornato in Italia a Firenze, di un piccolo paese della Campania, la tradizione continuata dalla moglie che ha portato avanti la tradizione, e poi i figli, ed è con noi il figlio che è il presidente della Salvatore Ferragamo, Ferruccio Ferragamo. Grazie, buon pomeriggio. Buonasera, sono Ferruccio Ferragamo e grazie per le sue belle parole. Ma no, non sono belle parole, si figuri. Tanto per ricordare solo a chi è in ascolto, il gruppo Ferragamo è presente in 103 paesi al mondo, e se andiamo a vedere come fa il suo fatturato, da dove lo ricava, è proprio ai quattro angoli del mondo, a conferma che l'Italia, se guarda come crescono i mercati mondiali ed ha prodotti, capacità organizzativa, non solo di realizzazione di stupendi prodotti, la crescita dei clienti che si volgono a questo tipo di prodotti di elevatissima qualità è quello che ci fa sperare bene nel mondo, perché insomma il vostro fatturato lo fate da lontana Asia ai quattro angoli veramente del... Però è solo lusso secondo lei o è una cosa che si può estendere a quello che l'Italia deve fare anche in altri settori? Penso in molti settori sia possibile farlo. Quello che ci tengo, lei lo ha già detto fra le righe, è che tutto quello che noi oggi facciamo e vendiamo in questi 103 paesi è fatto completamente in Italia, al 100%, quindi di questo ne siamo orgogliosi, perché ovviamente speriamo di dare un contributo a tante belle realtà che esistono in Italia. Senta, voi siete diventati, poi nella seconda parte della trasmissione, dopo l'introduzione, parliamo di quello che fate e perché lo fate e con quali ricavi, con quali ritorni per i restauri, le mostre, i musei, e andiamo al tema del giorno. Però mi lascio chiedere ancora una cosa: siete diventati nei decenni un gruppo che ha un fatturato importantissimo, avete un ricavi di 290, di 300 milioni praticamente solo nel primo trimestre di quest'anno, con tutti i margini come l'EBIT e l'EBITDA, quelli per utili, per misurare l'utile d'impresa, molto positivi, in aumento a doppia cifra, vi siete quotati in borsa, siete un pezzo di questa storia italiana che però non ha detto sì all'integrazione verticale in grandi gruppi, classicamente quelli francesi che hanno fatto acquisti a man bassa nel settore. C'era una via italiana che voi avete scoperto diversa da quella della Maina Bondiera, sia pure giustificata, io non sono contrario, di altri grandi gruppi della moda italiana, oppure qual è stata la differenza? Beh, io credo alla base ci sia questa storia che noi fortunatamente abbiamo avuto. Mio padre, come lei ha già detto, è partito emigrante per gli Stati Uniti quando era giovanissimo, e poi lui ci ha trascinato, lui e il ricordo di lui, grazie a mia madre, che è stata una donna fantastica, che tuttora dà un imprinting, una presenza non più giovanissima, ma molto lucida e molto presente, e su questa scia noi abbiamo beneficiato sia dell'aspetto di business sia sull'aspetto di cuore, di affezione a questa azienda, dove abbiamo tantissime persone che io non perdo mai l'occasione per ringraziare, senza di cui non riusciremmo a fare quello che facciamo. Tutte basate in Italia, dove facciamo la nostra produzione e come ho già detto vendiamo in tutte le parti del mondo. Senta, io le faccio una domanda adesso, però poi immediatamente diamo la linea alle strade per fare una risposta. Senta, sua donna e sua madre è, piacola viva, insomma, malgrado abbia più di 90 anni, ma è stata secondo me una strepitosa manager imprenditrice, in anni in cui insomma in Italia non esisteva né la parità né era così facile. Quindi le chiedo di spendere qualche parola su che cosa le ha insegnato da questo punto di vista il coraggio di sua madre quando è rimasta sola al vertice dell'azienda. Però intanto 60 secondi di strada e poi torniamo con Ferruccio Ferragano. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, 52 secondi, risposta ad alcuni sms che vengono da ascoltatori. No, questa è pubblicità. No, non è pubblicità. Ah, mercati aperti non si parla di quotate. Ma state scherzando, non si parla di quotate a mercati aperti. E che citiamo le imprese quotate solo dal mercato, dalla chiusura dei mercati e anche poi nell'after hours dei mercati, solo la notte praticamente. No. Scusate, avete un'idea un po' singolare di che, in che cosa consista il dovere del giornalista. Il dovere del giornalista è quello di non raccontare una cosa per l'altra sull'azienda di cui stiamo parlando. I numeri che vi ho citato sono i numeri, potete controllarli, visto che una quotata c'ha degli obblighi di comunicazione nell'ultima trimestrale, come è un fatto che questa sia un'impresa italiana è quella che ha cominciato per prima di tantissime altre a spendere molti soldini del suo per l'arte, la cultura, il restauro dei musei italiani, gli argomenti di cui stiamo parlando. E infatti ecco le telefonate, sentiamo rapidamente da alcuni nostri ascoltatori alla domanda che abbiamo rivolto sui musei cosa dicono. Davide da Treviso, prego Davide. Sì, buongiorno. Sì. Ho sentito appunto l'argomento e mi sembra molto interessante perché avendo avuto modo di viaggiare un po' all'estero, ecco, e ovviamente essendo andato in qualche museo è stato un po' inevitabile fare un confronto, certo, tra quello che offrono i musei italiani e quello che offrono i musei stranieri, dove a volte di fronte a un'offerta culturale italiana che è anche superiore, la carenza che si vede è quella proprio del, diciamo, di quei servizi che rendono fruibile il museo al visitatore. Intendo dire la comodità di accesso ad esempio per i servizi igienici che hanno una certa importanza per le persone anziane, ce ne sono pochi, sono difficilmente raggiungibili, oppure anche la possibilità di lasciare giù i vestiti specialmente d'inverno in un guardaroba che sia custodito anche a pagamento. All'estero queste cose sono nella norma, oppure delle cassette di sicurezza con dove si mette un euro come cauzione per poi ritirare le proprie cose. All'estero sono normali, uno snack bar, qui da noi sono quasi impensabili. Ecco, questo Davide fa degli esempi classici secondo me di come la gestione dei servizi intorno al museo da affidare a privati, secondo me, è una delle classiche cose per mettere a miglior reddito il patrimonio italiano, che è incommensurabile in termini mondiali comparati. Però questo punto di cui dice Davide è il classico esempio a che cosa serve incentivare i privati, perché diano soldi per far quello o lo gestiscono in proprio. Il titolo proprietario del patrimonio culturale, ambientale, museale non cambia, resta dello Stato. Il problema è che per metterlo a reddito e renderlo più fruibile bisogna che se ne occupi, secondo me meglio di quanto può fare lo Stato che non ha denaro, come abbiamo visto con Colosseo che non si poteva aprire la sera per i custodi che abbiamo ospitato, abbiamo spiegato perché. E allora coi privati questa roba invece serve non a espropriare lo Stato, serve a fare ciò che lo Stato non è in grado di fare. Sentiamo Renato da Penne come la pensa. Renato, prego. Salve, volevo solo dire, siccome ho vissuto per alcuni anni in Scozia, ho notato la differenza tra i musei proprio italiani e quelli, diciamo, della Gran Bretagna, che sono gratuiti. Sì. Capisco che il problema dei fondi, no? Che non ci sono in Italia, però ho notato come i musei siano visti anche come un luogo di incontro. Certo. Cioè vanno lì, prendono un caffè, girano intorno e quindi... E la cultura è più facilmente fruibile, si arriva. Renato, però ti devo dire, per esempio, che chiunque dia al Victoria and Albert Museum, per esempio, no? Classicamente. No, quello perché è della regina, credo. Ecco, cioè, i musei nazionali sono gratuiti. No, sono gratuiti, però, perché a qualunque tipo di museo che stia nella lista del National Fund riconosciuto, tu hai la piena deducibilità. A quel punto, ripeto, sia persone fisiche che società, ecco, questo ti aiuta a capire anche perché poi è più facile tenere in piedi i bilanci con l'offerta che fanno loro, che a livello mondiale è tra le prime del sistema museale britannico. Sentiamo Marcello da Brescia, prego Marcello. Sì, buonasera Oscar. Sì. Io sono una persona che in questo momento sta fondando un'agenzia di viaggi per portare stranieri in Italia. Ah. E in questi giorni stiamo proprio facendo gli itinerari perché vogliamo un pochino offrire agli stranieri un'immagine d'Italia diversa. Però io ho notato la differenza, l'anno scorso ad agosto sono andato a Londra e ho visitato sia il British che la National e entrambi i musei erano gratuiti, c'erano servizi impeccabili, c'era una pulizia eccezionale, una gentilezza inimmaginabile. A dicembre sono andato agli Uffizi e davanti agli Uffizi c'è un accampamento di persone. Sì, c'è una fila perché gli accessi non valgono per tutti e così via. Però, ripeto, andate a vedere la percentuale dei bilanci privati, perché lì è tutto pubblicato per il British Museum e così via, e capite quanto può cambiare la disciplina fiscale da questo punto di vista. Torniamo da Ferruccio Ferragamo. Abbiate presente che il gruppo Ferragamo, per esempio, già parecchi anni fa, nel 2001, a Firenze, dava dei contributi per il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali per consentire l'apertura domenicale e pomeridiana dei quartieri monumentali del Palazzo Vecchio. Quindi stiamo parlando di un'impresa privata che, senza chiedere più incentivi fiscali, 15 anni fa, 20 anni fa, già faceva queste cose. Però Ferruccio Ferragamo, gli avevo chiesto prima, da sua madre cosa ha imparato? Io ho imparato tantissimo. Mia madre ha cercato di tramandare tutti i principi di mio padre, la sua innamoramento nel lavoro, la sua onestà, la correttezza, il valore di quello che uno deve cercare di proporre alla propria clientela. Ma secondo lei, al di là dei valori morali e così via, in base a cosa sua madre ce l'ha fatta in un mondo che non ipotizzava l'esistenza di donne all'epoca al vertice di grandi aziende con la pressione mondiale, per di più? Io, grazie forse a mia madre, sono un grande estimatore delle donne nel mondo del lavoro, e nella nostra azienda credo che siano sicuramente in maggioranza. Mia madre ha un grande intuito, un grande capacità carismatica di coagulare tutti noi figli che per anni abbiamo contribuito e continuiamo a contribuire, e credo che sia il capitano innamorato della propria squadra. Ma voi perché dagli anni 80 avete cominciato a investire risorse, ripeto, senza che poteste contare su chissà quali incentivi fiscali, a questo fine preciso, il sistema del culturale, museale e del patrimonio italiano? Perché? Beh, abbiamo sempre, forse per due motivi fondamentali. Uno, la riconoscenza di quello che Firenze ci ha dato. Mio padre, come dicevo prima, è andato emigrante in America e poi, rientrando in Italia, lui veniva dall'Irpinia, ha scelto Firenze, qui siamo nel 27. E Firenze ha dato molto a mio padre, all'azienda, a tutti noi, e quindi abbiamo sempre avuto un segno di riconoscenza ed è un modo di ringraziare Firenze. Allora, io ne voglio sottolineare questo, lo dico anche per gli ascoltatori che continuano ad essere alcuni polemici, una tirata. Questo è quello che ha fatto l'azienda di Salvatore Ferragamo, uno che se n'è andato dall'Italia ed è tornato per fare successo nel mondo. Scoprirete perché oggi l'abbiamo fatto, perché appuntamento il 2 giugno, in cui parliamo di un'azienda molto più grande di fatturato, che dall'Italia ha preso moltissimo e che si è ben guardata da fare qualcosa di paragonabile a quello che oggi Ferruccio Ferragamo, che ringrazio, fa con la sua azienda, con suo padre e con sua madre da tantissimo tempo. Continuate con Radio 24.